Sì, è che non riusciamo ad andare più a mangiare assieme, siamo divisi. Però non riusciamo più andare a mangiare assieme. Invece si potrebbe organizzare un pranzo di quelli fatti bene venerdì, solo che dopo ci dobbiamo mettere. Comunque avete detto che non vi piace il nome che sto per dare a mio figlio, questa cosa no, veramente anzi, è un nome classico. Io penso sapete, se voi andate sul sito dell'Istat, ci siete, non so se avete mai provato a fare questo, cioè vi danno le statistiche sui nomi registrati ogni anno negli ultimi 10 anni. E poi c'è la classifica dei nomi che vanno più di moda, non avete mai visto? Tipo Gaia, Sara, Francesco, dipende Giulia. Dalle soap opera che ci sono. Io non l'ho mai sentito, però Topazio, com'è che si chiamava? Mamma mia, Topazio. C'è stata una serie di cose che tutti si chiamavano su Elena, sì. Kevin. Beh, Kevin quando la cosa è che è un nome non è pomposo, è un po' reale, non so come dire, è un nome antico ma che dà, cioè, è porta tanta. Beh, è un nome, viene allora, fuori una persona, statistico, secondo me, se uno poi pensa al nome, no, e per il figlio, nasce il figlio, cioè, quando gli dai un nome, rispecchia quel nome, per cui deve... Lei dice che si crea questo legame tra nome, perché gli altri... essere un... Sì. Ma in effetti Aureliano Tronca è il nome da professorone, cioè dice, non è una persona, cioè è una persona al di fuori statisticamente, è un nome che non esiste, cioè meno di 5 in un anno ce ne sono stati 6, nel 2006 credo, ne sono stati 6 in tutta Italia registrati questo nome. Però è un nome, ecco, le mura che stanno intorno a Roma sono ancora le mura aureliane. Beh sì, è un nome di liberatore. È un nome... è maestoso. Esatto. E quindi... Voi come vi chiamate di nome, se posso... Io Valentina. Valentina. Giovanni. Anche Giovanni. Giovanni è un nome non propriamente... È bellissimo. Bisogna che si sa come sono diffusi statisticamente. Lei come si chiama? Elgert. Sì. Con la H. Radice, sì, ha una radice tedesca, Gert, deriva dal... me l'ha messo mio padre, ma era un nome moderno, diciamo. Ed è un nome tedesco? È un nome tedesco. Di origine, però di origine albanese, perché si utilizzava anche in Albania in quei tempi. Ma qua si usano tanti nomi stranieri, poi sono scritti a volte, tipo Samantha. È difficile da capire, cioè non è usabile. È difficile anche perché... da scrivere, bisogna farlo spesso. No, il caso specifico dove la G si scrive senza H, ma viene pronunciato lo stesso G. Quindi Elgert. Sì. Sarebbe scritto Elgert. Sì, Elgert. E lei, se posso? Anch'io non scherzo, Arrigo. Arrigo! Anche Arrigo. Anch'io non scherzo. Anche Arrigo è un nome... È un nome desueto. È un nome... Sì. Ci sono dei nomi molto belli che a mio modo di vedere che però non si usano più. Io mi ricordo una volta una mia amica mi disse, ma come è che anche lei aspettava una bimba, no? Io ovviamente la sera mia moglie dice, ma la chiami Margherita? No, è che si chiama Margherita. E mi dice, no, ma sai, anch'io ci sono già pensato per la mia, però. La pizza, eccetera, dico come la bianca, pure bianca, in mezzo doppia mozzarella o no? Allora, vedete qua, Arrigo, sono proprio curioso di vedere quanti c'è. Vedete, questi sono i nomi più. Chi è che ha detto Sofia? L'hai detto Sofia prima? L'hai detto Sofia? No, però è un nome tanto. Anche Gaia. Ma non piace molto. Gaia è con l'ultimo posto, il decimo. Femmine, la prima è Sofia, sì, è Giulia. Quando ho partorito io erano tutte Giulia. Come si chiamano? Giulia si chiama Giulia Sofia, no? La mia? Se glielo dico, guardi. Si mette a ridere. Dopo quello che ho detto io, dica. La bambina si chiama Esther. Esther. Però non è stato molto approvato dal professore di diritto islamico perché. Quando gliel'ho portata, è un nome mi ha detto biblico. Come l'hai chiamata? È un nome biblico. Sì, mi ha detto come l'hai chiamata? E io ho detto l'ho chiamata Esther. Perché non l'hai chiamata Fatima? Cioè, c'è una, sai come se volete posso dirvi un po' anche l'idea dell'Islam, cosa ne pensa dei nomi, perché vedete Arrigo intanto come un miliardo. Cos'è uno 0,03? Meno, no, meno di 5. 5,99. Sì, però la cultura islamica, intende che tutti i nomi non si dà più, prima di tutto il segreto è un nome che non si dà più, nomi che sono connessi a quel significato, quindi c'è una lista di nomi. E si dice che il giorno del giudizio verrà chiamato il nome che tu dici. Poi se vai sulla responsabilità che il genitore ha verso il figlio, sei obbligato a dargli un nome, cioè una delle responsabilità che il genitore ha verso il bambino. Cioè, sono però diciamo che arriva pensando che io sicuramente da persone soprattutto da un nome che comunque di origine ebraica c'è rimasto un ma anche Esther, se tu vedi il significato, è vero. Io ho chiamato con i codici fiscali che poi usare. È il nome di allora, figlio, però ha il significato di Adni, una genna, cioè una forma del paradiso, che si chiama Adni, però la traduzione non è l'originale, quindi quando gliel'ho spiegato non mi ha detto niente nessuno. Allora, l'unità di rilevazione non sono relazioni, attenzione, qui torniamo a bomba, come si dice, sono i legami, ok? Poi siamo noi che ne prendiamo quattro, ad esempio, li ricomponiamo, eccetera, ma le informazioni si raccolgono sempre sul legame alla volta. Questo è molto importante, L'unità di rilevazione è il legame e questo ci differenzia già molto rispetto all'analisi, diciamo, statistica classica, che invece riconosce l'unità di rilevazione o di analisi dell'individuo. A noi interessa l'individuo, invece qui registriamo i dati sull'individuo, diciamo affibbiandoli all'individuo, ma vengono dalla rete, vengono dai legami che ha, ok? Vengono dai, per noi la realtà è quello che sta tra gli individui, la realtà sociale, ok? Quindi l'unità di partenza è sempre il legame e quindi le caratteristiche di base, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Quali sono i dati che consentono di registrare le caratteristiche di tre tipi? A questo punto, quando arriviamo a questa parte, è tutto semplice perché l'abbiamo già anticipato vedendolo nei capitoli che abbiamo già visto dell'altro titolo. I legami sono gli unici dati indispensabili, cioè la presenza di un legame tra coppie di soggetti o l'assenza del legame. Se c'è il legame c'è anche poi l'interazione, se non c'è il legame non c'è neanche l'interazione. Quindi questi sono i dati. Poi abbiamo gli attributi dei legami che servono per definire diversi contenuti delle relazioni. Se praticate personal network analysis, come si chiama lo strumento, la domanda che utilizzate o le domande che utilizzate per raccogliere le informazioni sugli attributi dei legami? Diciamo che potreste guardare quello che è alle mie spalle per trovare la risposta a questa domanda. Neanche alla stessa altezza, più o meno. Il? Name interpreter. Interpreter. Con i name interpreter noi raccogliamo le informazioni nella personal network analysis sugli attributi dei legami, quante volte vi siete visti, che tipo di orientamento affettivo avete nei suoi confronti, eccetera, e sugli attributi dei soggetti. C'è sempre questa dita di più. Gli attributi dei soggetti, con quale strumento invece si raccolgono? L'ultimo. Il name interpreter serve a ricostruire nella persona del network analysis la presenza dei legami tra gli altri. Il name interpreter ha due funzioni: raccogliere i dati sugli attributi dei soggetti e sugli attributi dei legami. Quindi è sempre il name interpreter, ok? Nella personal network analysis. Bene. Come si rilevano ed organizzano i dati relativi ai legami? La prima strategia che possiamo utilizzare è quella di accostare a nome di ogni soggetto ego i nomi degli altri con cui intrattiene uno specifico tipo di legame. Che trovate nel testo un esempio applicativo di questo, cioè abbiamo, raccogliamo i dati e poi accostiamo ad ogni nome il nome dei soggetti con i quali questo soggetto è in relazione, cioè ha il legame o i legami nei quali ci stiamo occupando nella nostra ricerca. Cioè noi registriamo il legame partendo dall'abbinamento che c'è tra i soggetti. Cioè, chiediamo ai soggetti se hanno un legame tra di loro. La lista sarebbe questa qua, no? Esatto. Nella personal network analysis e nel generator. Nella full network analysis è l'elenco degli altri soggetti che fanno parte del gruppo. Ok? Beh, questo finora è l'unica strategia della quale abbiamo parlato, va bene? Ed è quella che ci consente di avere dei legami, anche di raccogliere informazioni sui legami, anche informazioni più attendibili sul fatto che ci sia, che esista veramente un legame tra queste persone. E questo è l'esempio che trovate all'interno del testo: Gianni e Rosi, origine e destinazione. Daniela e Rosi, origine e destinazione del legame. Questa è una misura di intensità. Il tipo di legame, per esempio, un legame di simpatia, un legame di trasferimento di risorse, eccetera, eccetera. D'accordo? Si costruiscono degli abbinamenti. Ma c'è un'altra modalità di raccogliere i dati, che è la costruzione di matrici di affiliazione. Questo è molto interessante perché molto spesso noi non possiamo raccogliere delle informazioni parlando direttamente con i soggetti. E però ci troviamo alla stessa maniera nella necessità di dover sapere se questi soggetti sono in qualche modo in relazione tra di loro. Che cosa vuol dire affiliazione? Adesso ragioniamo un attimo sul significato delle parole che qualificano la matrice, perché poi ne vedremo altre di matrici. La matrice, vi ricordo che è un incrocio di due vettori di informazioni, è una tabella praticamente, queste sono le matrici, d'accordo? Vettori riga e vettori colonna. Le matrici sono delle cose fatte così, delle tabelle con dei valori. Ok? Allora, vedremo tanti tipi di matrice. Quello che ci dobbiamo di volta in volta chiedere è: le celle della matrice che stiamo analizzando a quale domanda rispondono? Vediamo questa matrice. Abbiamo già visto una matrice quando abbiamo parlato di presenza o assenza dei legami. Abbiamo chiamato quella matrice di adiacenza. Ogni cella risponde alla domanda: i due soggetti sono adiacenti tra di loro? No, 0, sì, 1, c'è un legame tra loro. Nella matrice di affiliazione le celle rispondono a questa domanda: a quali eventi è affiliato ciascuno dei soggetti? Cosa vuol dire affiliato ad un evento? Che cosa vuol dire affiliazione? Vuol dire fare parte, partecipazione, essere coinvolto, essere iscritto, questo vuol dire affiliato. Allora, non vuol dire avere un legame, no, però solo per il fatto di avere, dica, di essere presenti, contemporaneamente presenti a un qualcosa ci può portare ad ipotizzare che esista un legame. Benissimo, esattamente questo è il senso della matrice di affiliazione. Noi incrociamo i soggetti, i nodi, li mettiamo nelle righe e nelle colonne mettiamo gli eventi a cui questi nodi possono afferire, ok? Possono essere affiliati e possono partecipare. E se vi ricordate, c'è un esempio, non c'è un esempio, quando abbiamo parlato delle matrici teoriche dell'analisi dei reticoli sociali, abbiamo parlato degli interlocking directorates, cioè i legami personali tra i consigli di amministrazione. Voi immaginate di avere tanti manager e qua i consigli di amministrazione. Se il tuo manager appartiene allo stesso consiglio di amministrazione, consiglio di amministrazione A, B, C, di tre aziende diverse, il manager 1, 2 e 3, se N1 ed N2 partecipano allo stesso consiglio di amministrazione, per me questi due soggetti sono collegati tra di loro. E grazie a questo collegamento, due consigli di amministrazione, che sono A e B, che prevedono entrambi la presenza di N1 e N2, diventano collegati tra di loro, cioè sono coordinati. Questo era un esempio degli interlocking directorates, eh? Legami personali tra consigli di amministrazione. Se due consigli di amministrazione hanno lo stesso manager, sono coordinati attraverso la cooperazione di questo manager. No, questo è un'altra cosa. No, quello che voglio dire è che noi, incrociando i dati relativi alle affiliazioni, possiamo capire se sono collegati tra di loro i soggetti perché condividono la partecipazione allo stesso evento, o gli eventi perché condividono gli stessi soggetti al loro interno. Ok? Ma eventi, non riunioni, cos'è? Anche le riunioni, perché no? Anche le riunioni. Anche le riunioni. Cioè, se un ente ha previsto, ah, non so, 50, a me è capitato di fare una ricerca di questo tipo, ha 50-60 membri affiliati e nel giro di un anno ha organizzato 4 riunioni, oppure 5 gruppi di lavoro, sapere chi ha partecipato a queste riunioni per noi può essere, come dire, un indicatore del fatto che questi probabilmente hanno interagito tra di loro, anche se non ne siamo, non siamo completamente sicuri, d'accordo? La sicurezza l'abbiamo se parliamo con i soggetti. Comunque, adesso, al di là di questo, la matrice di affiliazione mi fa mettere sulle righe i soggetti e sulle colonne gli eventi a cui questi soggetti partecipano. La comune partecipazione ad un evento è intesa come un legame. Quindi questa è una rilevazione indiretta dei legami, perché noi non parliamo direttamente con i soggetti, ma ipotizziamo che siccome condividono questo tipo di legame, allora questo è un esempio di matrice di affiliazione, quello che trovate nel testo, pagina 58. Matrice N per M, quando si fa riferimento a una matrice, si indica prima, si qualifica ciò che sta sulle righe, N ed è il numero dei soggetti, delle persone, per M è il numero delle colonne. Se voi trovate due valori diversi, sapete già che questa matrice non può, non è una matrice quadrata e non può essere una matrice di adiacenza, ad esempio, perché la matrice di adiacenza introduce soggetti con se stessi, cioè il gruppo di soggetti con il gruppo di soggetti. Bene, N è il numero dei soggetti, N è il numero degli ambiti di partecipazione. Per esempio, abbiamo 5 individui, qui abbiamo 6 associazioni, oppure 6 consigli di amministrazione, facciamo l'esempio che stavamo facendo prima, 5 manager, 6 consigli di amministrazione, e sappiamo che il soggetto manager A partecipa al consiglio di amministrazione dell'azienda B, il manager B dell'azienda B e dell'azienda D, il manager C dell'azienda C e dell'azienda E e anche dell'azienda F e così via. Se due manager partecipano allo stesso consiglio di amministrazione, sono in collegamento tra di loro. Se un manager, nel caso che stavamo dicendo prima, partecipa a consigli di amministrazione diversi, nel caso degli interlocking directorates, crea un collegamento tra questi tre, il quale può portare anche alla funzione di un cartello che decide per esempio dei prezzi, perché li coordina, d'accordo? Quindi noi sappiamo che questi sono affiliati a questi eventi, ma la condivisione dello stesso attore ci può permettere anche di ricostruire un network tra gli eventi. Questo perché la matrice di affiliazione incrocia due cose distinte tra loro. Bene, che cosa ci dicono? Non so se ho chiarito il discorso rispetto a quello che abbiamo detto prima. Che cosa ci dicono i marginali di riga? I marginali sono le somme che noi troviamo a margine delle righe e delle colonne. Ok? Cosa ci dice il marginale di riga qua? Vedete la somma di questi valori, 0 più 1 più 2. 0.0.0.0.0.1. Cosa ci dice? Quanti soggetti hanno partecipato a X evento? Un marginale di riga, sulle righe abbiamo i soggetti. Questo ah, è sì. Il soggetto. Quindi, ribalti con numero dei soggetti, il numero, numero degli eventi. Il numero degli eventi, sì, cioè se un soggetto partecipa. A partecipa a un evento, B a due eventi, C a tre eventi e via discorrendo. Quello che stava invece dicendo lei è la risposta alla domanda, che cosa ci dicono i marginali di colonna? Dì la risposta. Il numero delle persone che hanno partecipato affiliate ad ogni evento. A ciascun evento. 2, 2, 3, eccetera. Allora, perché la matrice di affiliazione è in questa matrice si chiama anche matrice bimodale o two-mode? Perché bimodale o two-mode? Perché incrocia due cose diverse, due grandezze diverse, i soggetti e gli eventi. È utile perché ci consente di inserire dei dati rispetto alla partecipazione dei soggetti agli eventi che ci interessano e a partire da questo tipo di analisi, che può essere un'analisi svolta anche su fonti documentali naturalmente, ci permette di ricostruire il network tra gli individui. I software che consentono di fare analisi delle reti permettono di inserire i dati anche rispetto a questa caratteristica. Se riesco a farvi vedere una cosa, una delle ultime analisi che mi è capitato di fare utilizzando un tipo di inserimento, vabbè, adesso non si accende. È relativa come vi dicevo, sto svolgendo una ricerca con un'equipe di studiosi eccetera, per cui ci sono anche gli archeologi del Dipartimento di Arti dell'Islam del Louvre. Bisognava studiare diversi tipi di reti commerciali tra alcuni siti non oasi, oasi di Bucare. Allora qua mi è capitato di svolgere un'indagine di questo tipo. Qua è in Tunisia quella di Bucare? No, è in Uzbekistan. Che, facendo che cosa? Vedete? Guardate, questi sono dei canali, vi posso anche far vedere il... Vediamo se ho, se ho la cartina geografica. Vedete, questo è l'oasi, questo è lo Zerafshan, è un fiume. Qui c'è Samarcanda. Questo è il fiume che poi arriva qua e c'è il delta nel deserto. Muore nel deserto, questa è un'oasi, si chiama Oasi di Bucare. Questi sono i nodi della rete e qui adesso non si vedono bene, ci sono dei canali e si vedono un po', sono blu. Allora abbiamo identificato tutti i canali che erano navigabili tra il X e il XII secolo. Ogni canale navigabile è stato un evento di affiliazione. Un canale navigabile significa che due siti che stanno sul canale possono usare quel canale per commerciare. È come se condividessero un evento affiliativo. Strano come esempio, però per farvi capire che ci possono essere degli ambiti applicativi eccezionalmente diversi. Questi sono i canali. Questi segnati in blu. E questi sono i nodi che incrociano ogni canale. A partire da questa situazione, che non è altro che la presentazione grafica di quello che troviamo lì, si possono costruire delle reti. Vediamo se riesco a trovarne una. Tra le città, tra i siti, per la condivisione almeno di un canale, e vedete che emergono tre aree distinte di commercio all'interno di quest'oasi, oppure di collegamento tra i canali. Alcuni canali, vedi, i canali sono di meno, dove fossero 13, Esatto, alcuni canali condividono dei siti, quindi permettono, grazie ai siti, di essere collegati tra loro. Cosa vuol dire? Che se qualcosa circola all'interno di questo canale, può passare anche in un altro canale, anche se i canali non sono collegati tra loro. Come? In una città viene presa la merce, una città che è vicina ad un canale ma anche ad un altro, è spostata in un altro canale, sempre dello Zerafshan, di questo fiume, eccetera. È come se fossero dei legami tra diversi consigli di amministrazione, nell'esempio che stiamo facendo. Okay? E questa è una delle leggi, nella fattispecie, che abbiamo studiato per ipotizzare quali potessero essere le linee di commercio più utilizzate all'interno di questa oasi, ovviamente. È una delle strade usate, altre riguardano la distanza giornaliera, eccetera, eccetera. Allora, noi potremmo disegnare questa rete, d'accordo? La rete che trovate indicata all'interno di questa matrice. Quanti sono i nodi complessivamente? Cinque. È d'accordo anche lei? Sì, sì. Ok. Due. Tre. Quattro. E cinque. Okay. A e B sono collegati tra di loro, condividono almeno un evento affiliativo. Sì. L'evento B. L'evento B. E A e C sono collegati tra di loro. Siete d'accordo tutti? A e C no. Condividono almeno un evento, A e C? No. A e D? A e D neanche. E A e? A e no. Nemmeno, perché A sostanzialmente partecipa solo a questo evento, esatto, che è condiviso soltanto da B. B condivide qualcosa con C. Se guardiamo qui, vediamo che non condivide niente con nessun altro. B e C no. Con D? B e D sì. Con E. No, con E. No, con D. Con E? Con E? Sì. Quindi possiamo tracciare una linea tra B ed E. Ok? Poi C. Con D è collegato C. Con D e con E. Con D e con E. Siete d'accordo? Sì. D. Con chi è collegato? Beh, sempre con C e con E, sempre con C e con E. Del legame con C abbiamo già dato con? Con B. D è collegato con B? Perché? No, mi sto giocando. Con chi è collegato? Intanto è sufficiente guardare verso il basso adesso, perché il legame sì. Già dato. D partecipa a questo evento perché con C, a quest'altro evento dove c'è E, quindi l'unico attore no. Con cui è collegato grazie a questi eventi è E. Quindi la rete che emerge da quella matrice di affiliazione è questa. Ok, voi immaginate per esempio di incrociare delle reti di parentela, delle reti amicali, quando arrivate in un certo posto e dovete capire come funzionano le cose lì. Oppure di chiedere se c'è un tessuto associativo o di qualche tipo all'interno del contesto che vi trovate di fronte, semplicemente quali sono le associazioni locali frequentate da questi soggetti. Nel giro di qualche minuto siete in grado di ricostruire un network a partire dalle matrici di affiliazione. Qual è il limite di questa strategia di sistematizzazione del dato, e quindi di raccolta, di costruzione del dato? Il primo limite è che il fatto che due soggetti condividano un evento non può essere per sé garanzia che siano entrati in relazione tra loro. Certamente però c'è un tipo di legame, insieme ai legami indicatori che abbiamo visto prima, che potrebbe essere sufficientemente indagato in questa maniera, per esempio la condivisione di una membership associativa. Due soggetti condividono qualcosa se partecipano alla stessa associazione, d'accordo? Quindi questo è sicuramente un legame tra di loro. E poi c'è un altro limite: noi non possiamo studiare con la matrice di affiliazione in la direzione dei legami, d'accordo? Quindi è chiaro che un legame amicale non lo potete studiare così, un legame di simpatia non si può studiare utilizzando la matrice di affiliazione, d'accordo? Nei programmi che poi vedremo, una volta inseriti i dati dentro la matrice di affiliazione, si può, come avete visto, come vi ho fatto vedere adesso, rapidamente avere sia la rete tra i noti, a partire dalla condivisione degli eventi, che la rete tra gli eventi a partire dalla condivisione dei nodi, la rete tra i legami, tra i canali fluviali che vi ho fatto vedere poco fa. Questa modalità di derivazione è utile quando non si possono ottenere interviste dirette con i soggetti o quando queste ultime possono contenere informazioni che non siano attendibili. Ok? Se pensate che le persone che state intervistando vi mentano rispetto ai legami con gli altri, è chiaro che avendo delle informazioni su ciò che condividono potete in qualche maniera capire quali sono i legami tra di loro. E naturalmente ogni volta in cui si possono ottenere interviste dirette. Oppure quando non è particolarmente conveniente, o è difficile, richiede molto tempo, non vi darebbe delle informazioni molto utili rispetto a quello che state studiando, d'accordo? Per esempio, se dovete studiare il modo in cui delle associazioni si coordinano dentro un'associazione di associazioni, a me è capitato col forum delle associazioni familiari, non so se avete presente che cos'è un'associazione di associazioni familiari italiana, che appunto raccoglie delle figure associative all'interno. Dovevo studiare il network di legami tra queste presenti dentro questo forum, è una delle, per esempio, delle organizzava il Family Day, avete mai sentito parlare di questo? Insomma, questo forum qui, e mi sono fatto dare, nell'equipe di ricerca alla quale lavoravo assieme, sono pubblicati i risultati in un volume curato da Donati e Prandini che si chiama Associare le associazioni familiari del 2003, edito da Città Nuova, Roma, i gruppi di lavoro dove lavoravo con queste associazioni, come eventi di affiliazione, ho messo in fila le associazioni e abbiamo ricavato i legami a partire dai gruppi di lavoro. Peraltro identificando delle associazioni all'interno che apparentemente erano marginali, non centrali, tenete presente che dentro il fondo delle associazioni familiari ci sono associazioni del calibro di peso, come quantità di iscritti, popolazione cattolica, le ACLI, insomma, voglio dire, quindi dentro queste associazioni, naturalmente nella pubblicazione dei risultati abbiamo rispettato la privacy delle associazioni, quindi non ci sono scritti i nomi dei noti, ma ce ne sono venute fuori un paio che pur non essendo affatto, diciamo, come dire, che pur essendo meno pesanti a livello di comunicazione di queste che hanno tantissimi iscritti, avevano assunto una posizione tale tra i gruppi di lavoro per cui di fatto riuscivano a fare una forte pressione all'interno perché le proprie istanze diventassero anche quelle del forum, sfruttando la posizione nei gruppi di lavoro, pur non venendo da una posizione di potere. Questo vuol dire, è una dimostrazione ulteriore del fatto che la posizione strutturale dà potere, dà un potere di incidenza e di influenza, ok? Anche di fronte agli giganti, diciamo così. Le modalità di rilevazione empirica dei dati. Quindi come si raccolgono i dati? Attraverso quali strumenti raccogliamo i dati? Si svolge una ricerca su fatti avvenuti nel passato, occorre fare riferimento, in questo caso, a fonti documentali, documenti pubblici, alberi genealogici, organigrammi, eccetera. Cioè che abbiamo fatto l'esempio, no? Questa ricerca è stata veramente molto interessante per me perché è completamente diversa da quello che ho sempre fatto. Guarda, vi ho fatto vedere qualche dato. Per esempio, abbiamo stimato la distanza percorribile nella giornata solare dalle carovane, quanti chilometri riuscivano a fare in un giorno per il trasporto, e abbiamo stimato che questa grandezza vari tra, credo che sia tra i 28 e i 32 chilometri, qualcosa del genere. Ok? Bene. Fonti documentarie sui generis, cioè la latitudine e la longitudine, quindi le coordinate GPS delle città, ricavare le distanze chilometriche tra loro e poi stimare il contatto diretto dentro questo range tra 28 e 32 km, ad esempio, per produrre una matrice di adiacenza. È un esempio di fonti che non prevedono una raccolta di dati di prima mano, ma interrogano le fonti presenti. Trovate degli studi bellissimi sulle relazioni tra la famiglia dei Medici e altre famiglie della Firenze rinascimentale, che naturalmente non sono state fatte dopo delle sedute spiritiche per intervistare i cari defunti, diciamo così, ma a partire da documenti storici che riguardavano le relazioni tra loro, sono molto interessanti. Ecco, l'esempio che ho fatto prima del forum, i documenti relativi alla presenza di queste associazioni nei gruppi di lavoro, tra le altre cose. Se invece è possibile o necessario rilevare dati di prima mano, possiamo utilizzare diverse strategie. Nella presentazione di queste strategie, naturalmente si vede anche la differenza tra i contesti di ricerca che possiamo trovarci di fronte. La prima è l'osservazione diretta, è l'ideale per gruppi ristretti, richiede una delimitazione spaziale e temporale del campo di indagine, una definizione precisa del gruppo di soggetti e del tipo di interazione da studiare. Quanto possa essere utilizzata l'osservazione diretta nell'ambito dell'emergenza è difficile dirlo, nel senso che voi tendenzialmente vi trovate di fronte a un contesto che non c'è, siete voi che create, che è surreale, quello che c'è è surreale, giustamente dovete voi creare un contesto interattivo, d'accordo? In ambito educativo è piuttosto semplice invece fare un'osservazione, per esempio in una scuola dell'infanzia, è una cosa che si può fare dall'esterno, guardare quali soggetti si trovano, anche creando degli eventi associativi appositamente fatti per studiare le interazioni, cioè lasciare per esempio i bambini liberi di organizzarsi, per esempio in ambito sportivo, fare un esperimento e dire bene, vi lascio mezz'ora per l'allenamento libero, organizzatevi come volete e vedere come interagiscono con i soggetti è molto interessante e si può osservare, anche se è artificiale il contesto, diciamo così, però si può osservare. Nell'ambito dell'emergenza io immagino che sia un po' diverso, salvo fare un'osservazione ex post, esatto, magari anche dopo una settimana, dopo che avete già provato a organizzarvi in qualche maniera. Oltre all'osservazione diretta, naturalmente c'è la rilevazione mediante questionario oppure intervista. Queste due strategie ci consentono di raccogliere dati di prima mano. Cioè di raccogliere direttamente i dati finalizzandoli alla nostra attività di ricerca. Si accede ai dati relazionali grazie alla testimonianza degli intervistati e qui si prevedono delle diverse strade. Gli intervistati elencano le persone con cui intrattengono le relazioni oppure descrivono le relazioni che gli altri soggetti intrattengono tra loro. Se dovessi chiedervi come si chiama lo strumento in personal network analysis per raccogliere le relazioni che altri soggetti intrattengono tra loro, voi sono sicuro mi rispondereste tutti quanti in coro, il name interrelator, giusto? Attraverso questa operazione si ricostruisce una mappa cognitiva della struttura delle relazioni. Ora, perché si chiama mappa cognitiva, la rete che si produce è una rete cognitiva? Perché chiaramente la rete sta in testa al soggetto che vi racconta dei suoi legami. Ora, per quanto riguarda le relazioni forti, cioè le relazioni amicali, parentali, sostegno, amicizie, eccetera, è naturale che questa strategia è molto attendibile. Cioè voi sapete se due vostri amici si conoscono tra di loro, bene? Se dovessi fare la stessa cosa, utilizzare la medesima strategia per studiare le relazioni tra imprenditori, siamo sicuri che un imprenditore sappia se due imprenditori con cui fa affari fanno affari tra loro? Probabilmente non è attendibile come per le relazioni primarie, quindi questa possibilità, che naturalmente ci fa subito pensare allo scenario della personal network analysis, è una possibilità limitata rispetto al tipo di legame che possiamo studiare, però sicuramente va bene per le relazioni di aiuto. E in modo particolare per le reti che danno sostegno, perché due soggetti, un soggetto in genere sa se gli altri due con i quali è un legame profondo di sostegno si conoscono, si aiutano e può persino sapere qual è il verso di questo aiuto, chi aiuta chi, se si aiutano tutti e due o no, d'accordo? Ecco, le strategie che si possono utilizzare sono delle interviste face to face. Ecco, le due ricerche di cui vi ho raccontato prima, quella veronese e l'altra nazionale, sono state fatte con interviste face to face, d'accordo? Le interviste telefoniche sono molto complicate evidentemente come strategia per la raccolta di queste informazioni, come pure i questionari autosomministrati possono esserlo. Qui non trovate nel testo, aggiungo io, l'intervista online. Ciao. Per queste telefoniche ci serve un ampio campione, perché non c'è più del 50%. Ah, guarda, prego. Allora, abbiamo ultimamente fatto una ricerca telefonica qui a Verona per arrivare a 500 interviste, abbiamo avuto 4.800 rifiuti. L'indagine nazionale, per fare 4.000 interviste abbiamo avuto 4.000 rifiuti, no, pardon, 4.000 interviste abbiamo avuto 10.000 e passa rifiuti e 2.000 casi erano fuori quota, cioè fuori dalle quote erano già state rifiuti. Tenete presente che come se si contasse, si contano la quantità di contatti. Sta, perché anche noi in telemarketing abbiamo quella risultato lì, perché su 50 telefonate che fai giornaliera riesci a prendere 1/2 appuntamenti. Quindi non è neanche, sì, è minima la percentuale. Sì, beh, nel caso precedente ho detto, se si contano i contatti, cioè numeri errati, per esempio questa ricerca qua su Verona, numeri errati, necessità di fissare un appuntamento, poi insomma complessivamente i contatti, per fare 500 interviste i contatti telefonici sono fatti più di 11.000, capisci? Quindi ci sono, però il problema non è quello, non è quello delle quantità, il problema delle quantità riguarda il disegno campionario, il campionamento, se l'indagine campionaria, e riguarda le interviste telefoniche, come le interviste faccia a faccia, come il questionario che sono gli strati, eccetera, d'accordo? No, però nel questionario le volte come si faceva, se tu lo spedisci, cioè per la vostra trattata, l'ho fatto tutti gli altri. Chi lo spedisce? Attenzione, cioè, sì, noi nel senso di l'azienda ospedaliera universitaria. Sì, sì, facevi un campione, li spedivi, li mettevi dentro già la busta autofrancata, nel senso delle cose della posta, e Il questionario postale, quando si utilizzava eccetera, ha un tasso di risposta di un sesto complessivamente. Però lei sta parlando di ricerche fatte probabilmente su pazienti o ex pazienti dall'ospedale, d'accordo? È un ambiente molto, come dire, positivo per la raccolta delle informazioni, cioè nel senso che l'utente è tendenzialmente risponde, è un portatore di interesse, eccetera. Poi è molto interessante perché ultimamente abbiamo fatto una ricerca sul consultorio di Verona, quindi ho approfondito quel tema delle ricerche in ambito medico sanitario, e c'è una buona bibliografia sulle indagini probabilistiche e non probabilistiche fatte in ambito medico, no? Però io ritengo che sia un settore di ricerca rispetto alla, diciamo, disponibilità dei soggetti intervistati, non di certo medio, d'accordo? Trovo un terreno molto più fertile. Ecco, lei deve pensare, bisogna pensare che ci serviva un altro po' di attrezzatura. Quanti ce ne ha lei? Registratori, telefono? Solo uno? Un telefono, c'è un altro telefono qua. Ah, ok, no, perché qui ne abbiamo messo una quindicina già. È arrivato già con delle lucine, diciamo così. Ecco, allora, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che quando pensiamo all'intervista telefonica, pensiamo alla telefonata alle 8 di sera a casa, no? D'accordo? Perché poi purtroppo io vedo che c'è questo problema, no? Nel senso che non si riesce probabilmente a mantenere un ambito di specificità per le ricerche, e i telefoni fissi, io ho un telefono fisso a casa, sono veramente tempestate, telefonate di qualsiasi tipo, d'accordo? Da non soltanto le vendite, ma anche, insomma, a me qualche volta mi chiamano pure per sapere se c'è qualche appartamento in vendita nel condominio di Busto, insomma, voglio dire, no? Ma si fa dalla percentuale, ma mai provato a farsi dalla percentuale lì? No. Non la chiamano più. Ieri è arrivata la Tecnocasa a casa di mio papà, mi ha detto: sa se ci sono appartamenti in vendita? Sì, lo so, basta che mi dai un tot per le informazioni che ti do e vedrai. Ah, risposto lei? Ce n'è una bellissima di interviste dove c'è è un gestore della corrente elettrica che telefona a un signore che chiede qual è il gestore del bacino fiscale, questo qua gli dice io sono attaccato con due fili al lampione e quando c'è la luce va e quando non va, ma scusi, ma chi è il gestore? Non ho gestore, non ho niente. E dopo un po' gli dice, scusi, è col gas e cos'è? E niente, noi andiamo in giro per la città, ci sono la gente che mette fuori le bombole da casa, siccome nelle bombole rimane qualcosa, prendiamo le bombole, le mettiamo sotto sopra e arriva dentro un po' di gas e con quello cuciniamo per prendere per il culo quelli che telefonano, una cosa incredibile. Beh, però adesso al di là del fatto che si trovi una persona disposta a farsi intervistare, le domande per l'analisi delle reti sono a un livello di complessità che rende forse non proprio adeguato lo strumento telefonico della raccolta di informazioni. Invece in questo momento abbiamo un'indagine che sta per partire in cui stiamo utilizzando l'online, quindi la raccolta con, si chiama CAWI, Computer Assisted Web Interviewing, e vediamo come risponderanno gli intervistati, no? Nell'idea che sia molto più simile a, diciamo, alla pubblicazione, all'autodimostrazione, alla voglia di vedere, per esempio, una matrice, eccetera, eccetera. Ecco, come si formulano le domande? Qui arriviamo a un tema piuttosto importante, piuttosto rilevante, perché questi criteri, l'incrocio tra le differenze che troviamo rispetto a questi criteri, richiede da parte nostra la necessità di pigliare una decisione, una decisione che spesso di carattere teorico e riguarda appunto le finalità che noi vogliamo raggiungere con la nostra conoscenza rispetto ad uno o più dei legami indicatori di cui abbiamo parlato prima. Una volta scelto il legame o i legami, occorre scegliere una combinazione tra queste alternative. Sono tre alternative. Qui naturalmente stiamo parlando di raccolta di dati di prima mano, ok? Quindi dobbiamo fare le domande, raccogliere le informazioni, prego, e ci troviamo di fronte a queste alternative. Dobbiamo scegliere, fare una scelta rispetto a ciascuna di esse. Prima alternativa, consentire all'intervistato di indicare liberamente il numero delle persone con cui intrattiene quel tipo di legame, oppure limitare il numero delle persone che possono essere citate. Che differenza c'è rispetto a questa strategia? Non è soltanto una differenza, diciamo così, pratica, ma dipende dal tipo di legame che stiamo studiando. Faccio un esempio. Se voi volete studiare una relazione di sostegno all'interno di un gruppo di soggetti che si conoscono già, sostanzialmente si aiutano, eccetera, eccetera, e voi non ponete una limitazione alle persone che possono essere citate, ma consentite di indicare liberamente, con ogni probabilità tutti si indicheranno reciprocamente. Se non avete differenze tra gli individui a livello relazionale, non avete variabili, le variabili si chiamano così perché devono poter variare. Avete delle costanti e le costanti non vi servono nel corso della ricerca. Se avete bisogno invece di questa informazione perché volete trovare quali sono le aree della rete più affidabili e magari partire da quelle per introdurre un nuovo tipo di sostegno, un nuovo tipo di aiuto, allora dovete far limitare il numero delle scelte. Dimmi quali sono le tre persone che ti aiutano di più. Quali sono le due persone che ti hanno aiutato di più nell'ultima settimana? Far scegliere. Dipende dal legame che vuoi studiare. Certo, io adesso sto facendo questo esempio, d'accordo? Se invece avete di fronte un gruppo di persone che si conoscono a malapena, che non hanno mai lavorato assieme, ma magari avete messo voi per qualche ragione assieme e si trovano assieme da qualche giorno, e volete capire quali sono gli appigli dai quali poter partire per organizzare la struttura delle relazioni di aiuto tra queste persone, allora probabilmente conviene consentire la libera indicazione invece della limitazione delle scelte. D'accordo? Qui siamo a un livello di maggiore strumentalità del legame. Ok? Come vedete, questa scelta, che pare soltanto tecnica e che ha degli effetti tecnici, perché se voi fate limitare il numero delle persone indicate, poi gli indici di centralità, oltre un certo livello, non potranno andare, perché sono vincolate le scelte, d'accordo? Quindi è una scelta tecnica che ha degli effetti tecnici, però va fatta in base alla necessità teorica che abbiamo in testa, quello che vogliamo sapere della relazione che stiamo studiando. La seconda alternativa riguarda quella tra la presentazione all'intervistato e l'elenco completo dei soggetti, oppure il confidare la capacità del soggetto di ricordare i membri della sua comunità o gruppo di riferimento. Chiaramente qui viene questa alternativa, si pone soprattutto quando pratichiamo che cosa? Personal o full network analysis? Secondo voi? Parte dal personal. No, personal. Si pone soprattutto con la personal. Si può porre con la personal se identifichiamo, per esempio, delle posizioni da elencare nella loro completezza. Però se c'è l'elenco completo, vuol dire che io riesco a delimitare i confini del gruppo. E quindi posso produrre un elenco completo perché chiedo a ciascuno che legame ha con tutti gli altri ad eccezione di sé. Quindi il gruppo è un gruppo completo. Diciamo che si pone in maniera un po' più profonda questa differenza se siamo nell'ambito della full network analysis. Ora, che cosa facciamo? Chiediamo a ciascun rispondente, gli mostriamo l'elenco di tutti i membri del suo gruppo rispetto ai quali mi deve dire se ha un certo tipo di legame oppure no, oppure gli diciamo: bene, dentro il tuo gruppo con chi hai questo tipo di legame? E lasciamo delle righe vuote nelle quali devi scrivere dei nomi. Tecnicamente questa è la differenza, eh? Il gruppo è già coeso, no? Il gruppo, sì, però soprattutto coeso rispetto al legame che vogliamo studiare. Faccio un esempio: se voi volete studiare un legame di sostegno strumentale tra queste persone, quindi diciamo la dimensione, un legame indicatore A dell'ACI della relazione di aiuto, queste persone, diciamo così, interagiscono magari non da molto tempo, allora fornire l'elenco completo consente in un certo senso di stimolare una maggiore quantità di risposte, che vedendo i nomi ciascuno associa a quel nome magari un evento anche avvenuto 6 mesi fa o un evento minimo avvenuto il giorno prima, poi non avrebbe dato un grande peso, ma gli torna in mente perché vede i nomi delle persone. Noi in qualche modo favoriamo una maggiore quantità di indicazioni se mostriamo l'elenco completo. Se studiate un gruppo di soggetti che si conoscono, sono amici e si aiutano già da diversi anni e gli mostrate un elenco completo, rischiate che tutti si indichino vicendevolmente. Proprio per questa ragione c'è una sorta di innesco cognitivo mostrando il nome, d'accordo? Se invece non lo fate perché volete studiare la presenza di legami, dei legami più importanti all'interno, beh, allora il soggetto dovrà perlomeno ricordarsi i soggetti con i quali ha quel tipo di collegamento e sicuramente favorirete una minore quantità di risposte, di indicazioni. Se un gruppo è lasco, è appena creato, appena formato e utilizzate questa strategia, rischiate che nessuno indichi altre persone o che si indichino pochissimi, e quindi anche in quel caso avete una costante, una rete vuota, d'accordo? Rischiate di avere un grafo vuoto. Quindi queste due alternative sono di nuovo due risposte diverse a domande teoriche diverse che ci poniamo rispetto a quello che stiamo studiando. La terza alternativa è quella, quindi abbiamo visto libera indicazione o limitare il numero delle risposte, elenco completo oppure no, pretendere che i soggetti ricordino i membri del gruppo dentro al quale stiamo studiando le relazioni. Terza alternativa, chiedere al soggetto di non limitarsi a identificare l'individuo più in relazione, ma di valutare anche l'importanza del legame. Cioè, quale delle caratteristiche della rete vogliamo del legame vogliamo studiare in modo particolare, in questo modo? Quale delle caratteristiche fondamentali, delle qualità del legame? Peso. Il peso. Il peso. Qui vogliamo studiare il peso e abbiamo un'alternativa. Assegnare un punteggio oppure far compilare una graduatoria. Attenzione! Anche in questo caso abbiamo dei pro e dei contro, o meglio, delle caratteristiche che diventano dei pro se sono adeguate rispetto a quello che vogliamo studiare, e delle caratteristiche che diventano dei contro se invece non sono adeguate rispetto a quello che vogliamo studiare. Che cosa significa assegnare un punteggio? Significa che a ciascuno dei soggetti, quali sono liberi di indicare tanti nomi, tutti o soltanto alcuni, i quali hanno di fronte l'elenco dei soggetti oppure devono ricordare, quindi generiamo le liste di nomi di indicazioni in maniera diversa, chiediamo di assegnare un punteggio al legame che hanno con l'altro. E cosa vuol dire assegnare un punteggio? Beh, abbastanza soggettiva però una cosa. Certo, ma no, sul fatto che sia soggettiva non ci piove. Però se noi chiediamo di assegnare un punteggio, vuol dire che chiediamo al soggetto di produrre una misurazione. Qual è la logica sottesa metodologicamente alla produzione di una misurazione? Avere una metrica. Avere una metrica, cioè decidere che una cosa diventa misurabile e fornire un metro di valutazione. Può essere più o meno arbitrario questo, perché noi possiamo produrre una misurazione, o meglio, possiamo produrre una, diciamo, un'attribuzione di punteggio anche utilizzando il conteggio. Quante volte vi siete visti nel corso dell'ultima settimana, d'accordo? Anche in quel caso è un po' meno soggettiva, d'accordo? E non si chiede di fare questo lavoro di misurazione. Però, sia che si utilizzi la misurazione, sia che si utilizzi il conteggio in questi esempi, noi alla fine produciamo una valutazione che per noi come ricercatori ha un valore, nel caso della scala, autoevidente. Cioè, calcoliamo la media all'interno, per esempio, e sappiamo come ciascun soggetto mediamente si colloca rispetto ai legami che ha e ogni legame come si colloca all'interno di questa scala. Quindi se noi dobbiamo dire qualcosa in generale sul livello di amicizia che c'è all'interno di questa rete, noi abbiamo in mente un'idea di amicizia, utilizziamo una scala 1-10, se abbiamo una media che supera il 6, possiamo dire tendenzialmente la valutazione circa il clima di socievolezza, di amicizia, eccetera, è positivo, d'accordo? Quindi qual è il discorso? Il discorso è che noi abbiamo una realtà esterna, che è il concetto di amicizia, ad esempio, per noi, alla quale con l'attribuzione dei punteggi proviamo a confrontare la situazione dei legami all'interno della rete, perché chiediamo a ciascuno dei membri della rete di confrontarsi con questa realtà esterna. C'è una scala esterna rispetto al gruppo, d'accordo? Allora, se avete un gruppo dove i soggetti però hanno, come dire, una situazione simile tra di loro rispetto a questa grandezza, questa caratteristica, cioè la possibilità che noi abbiamo di dire se complessivamente c'è amicizia all'interno di questa rete, diventa un limite, perché avrete tutti i soggetti che si collocano grosso modo allo stesso livello, avremo quindi dei soggetti che sono indifferenziati rispetto a questo. Potremmo dire complessivamente c'è amicizia o non c'è, ma dentro la rete non ci sarà una forte differenziazione, d'accordo? Se invece di chiedere di attribuire dei punteggi chiedete a ciascuno dei membri della rete di fare una classifica tra gli altri, primo posto, secondo posto, terzo posto, quarto posto, questo mi è più amico, questo un po' di meno, questo un po' di meno, questo meno ancora, allora voi producete senz'altro una differenza all'interno della rete. Voi costringete i soggetti che non potranno indicarvi 8, 8, 8, 8, ma li costringete a fare una graduatoria tra gli altri, a metterli in fila. Cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo la certezza, producendo una graduatoria, di creare una, diciamo, differenziazione rispetto ai legami all'interno, una certezza più elevata rispetto all'uso del punteggio. Ok? Qual è il limite? Che essendo tutta interna la logica al gruppo che stiamo studiando, il fatto che ego mi dica che questo viene prima, questo viene dopo, questo dopo ancora, eccetera, può significare che questo gli è simpaticissimo e questo gli è antipatico, ma può anche significare che questo è primo solo perché gli è un po' meno antipatico di questo, un po' meno, ancora meno di questo e ancora meno di quest'altro. Cioè, voi non avete un dato generale da confrontare con una scala esterna relativo alla presenza di amicizia all'interno di quella, di quel gruppo. Potete dire che dei soggetti si sopportano meglio o peggio tra loro, ma non potete dire che complessivamente c'è o non c'è amicizia all'interno della rete. Non so se avete un'idea. Il mio concetto prima di soggettività era riferito a questo. Se a me mi si chiede se lui, che so, è mio amico, io da un valore da 1 a 10, io che sono una persona magari più aperta posso dire sì, io do questo valore 10. Okay. Una persona magari un po' più chiusa e che può dare un punteggio massimo che arriva a un 8. Quindi poi quando ho i dati non mi dà una cosa oggettiva, perché ogni individuo dà una scala, ha una scala sua, tra virgolette. Sì, cioè su questo non ci piove, però se lei è più aperta ed è più disponibile all'accoglienza nei confronti dell'altro, quindi da 10 perché lo sente amico, è bene che questa differenza rispetto a una persona più chiusa, che al massimo da 8, venga fuori. Quindi è chiaro che c'è questo problema di soggettività, no? Però l'importante, cioè l'aspetto positivo nell'utilizzare dei punteggi, che io ho una scala esterna verso la quale chiedo a tutti di collocarmi e io so dire, decido qual è il livello al di sotto del quale non va bene, al di sotto del quale va bene. Quindi se, diciamo così, chi organizza il servizio dice bene, voglio sapere se il livello di soddisfazione per i legami che hanno questi soggetti che ormai vivono insieme da un mese è accettabile, è chiaro che voi dovete definire che cosa è accettabile, una scala per misurare l'accettabilità, e poi dovete confrontare la situazione che c'è dentro con quella che c'è fuori a livello generale nella vostra testa. Però è chiaro che la differenza è bene che emerga, d'accordo? Il problema potrebbe esserci se la persona che è molto aperta indica 10 dappertutto, d'accordo? Allora, questo è un problema, ed è chiaro che in quel caso bisogna, se si ha l'impressione di avere di fronte persone di questo tipo che danno tutti 10, tutti 0, e vogliamo vedere le differenze all'interno, bisogna usare la seconda strategia. Bene, ho capito. Lei considera tutti amici, me li metta in ordine per cortesia. Io la costringo a fare un ordine. Quindi ciascuno di noi avrà il migliore e il peggiore all'interno della rete, però questo non vuol dire, non ci dà la certezza di avere la possibilità di dire c'è il livello accettabile o non accettabile di coesione sociale. Ok? Perché lei potrebbe dire bene, sì, mi fa questa scala, però lei vuole bene a tutti, diciamo così, e la persona meno aperta fa la scala come la fa lei, ma li odia tutti, mette in ordine quello che odia un po' di meno e poi gli altri. Quindi si tratta di... Nell'ambito dello studio di una rete è meglio il punteggio, lui è più parametrabile, che riesce, diciamo, a delimitare. Dipende però, perché se lei ha la necessità di distribuire in due gruppi di persone che devono andare anche proprio a stare assieme, no? Condividere degli spazi, eccetera. Allora devi applicare tutti e due, prima uno e poi l'altro. Diciamo che sì, che probabilmente se si parte col secondo si ha la possibilità di risolvere subito il problema pratico. D'accordo? Perlomeno unisci le persone che, incrociando i dati, tra di loro si ritengono più accettabili, se emerge un quadro comprensibile da questo punto di vista. L'analisi del livello complessivo di coesione si potrà fare magari più avanti. Ecco, però adesso, al di là di come poi negli esempi pratici possiamo incrociare queste due grandezze, L'unica premura che adesso io ho è che sia chiaro il tipo di funzione che hanno, come sono utili, perché danno due risposte diverse, non è soltanto una faccenda tecnica. Quindi se avete la necessità di capire la coesione sociale, senza dubbio il punteggio funziona bene, d'accordo? Su questo non ci piove, no? Però se il livello di coesione sociale dopo un certo metodo, dopo un certo periodo di tempo diventa sostanzialmente elevato e però per qualche ragione bisogna dividere in sottogruppi soggetti e può essere utile mettere assieme soggetti che si tollerano di più, anche se tutti fra di loro hanno un buon rapporto, allora costringere a fare delle graduatorie, perché sennò c'è il rischio che uno indichi un valore elevato. Allora poi come fa a decidere se devono essere in tre, quali tre, quale terra azzeccare, quali soggetti mettere assieme? D'accordo? Invece con le graduatorie si ha una maggiore probabilità di avere una discriminazione all'interno. Allora chiamiamo, come aveva detto prima, che l'uno non esclude l'altro, potrebbero essere un'alternativa o darle altre. Rispetto a perfettamente. Cioè, dipende dalla domanda che abbiamo. Cioè il discorso è questo. E questo io spero che mi pare che sia emerso con chiarezza. Cioè, la risposta a queste tre domande: elenco libero oppure fare una selezione, i primi tre, elenco completo o devi ricordarti quali sono, fare una graduatoria o dare dei punteggi, che sembrano tecniche, in realtà devono dialogare con la domanda che in quel momento abbiamo come ricercatori. Cioè, la stessa domanda potresti utilizzare entrambe le scale, cioè certo. Prima quella generica, sì, o magari per la stessa domanda in tempi diversi. Una sì, fase iniziale. Anche nella stessa domanda, prima fai a punteggio e poi fai la certo. Potresti usarli tecnicamente tutti tre moltiplicati per due, per avere due opportunità, sei nello stesso questionario. Sì, però tenendo presente che poi se devi utilizzare i tempi, no, ma la raccolta dei dati. Bisogna scegliere il mix. Io direi che sarebbe bene che ciascuno poi, in base al tipo di uso che fa di queste tecniche per il lavoro che svolge, si crei una combinazione dei mix più adeguati rispetto alle diverse fasi della ricerca: la fase iniziale, prima dell'intervento, dopo sei mesi, dopo un anno, oppure dopo la distribuzione di una risorsa, prima che la risorsa sia distribuita, per l'identificazione di un'idea. Cioè, voglio dire, poi è chiaro che anche per ottimizzare, perché insomma si tratta di situazioni in cui anche prevedere. Però secondo me poi con l'esperienza, andando avanti, che sarà tutto automatico e certo. Anzi sempre più specializzata la cosa. Perché poi si vede che cosa funziona, che cosa dà delle informazioni migliori e cosa invece non funziona. Esatto. Tenendo presente che si tratta di situazioni in cui secondo me c'è una condizione paradossale, no? Rispetto all'indagine standard. Cioè qui si hanno dei soggetti che rispondono alle domande che facciamo, perché siamo nella condizione di poterci far rispondere alle domande mentre le poniamo, e che però non possono essere oggetto di una quantità eccessiva di domande, di richieste, eccetera. In questo senso è paradossale. Noi in genere siamo in una situazione opposta, in cui i soggetti possono essere oggetto di tante domande, nella condizione, diciamo così, di normalità, ma nessuno o pochissimi sono interessati a rispondere. Questo invece, in questo caso, bisogna ottimizzare il tempo incrociando l'immagine con tutto il resto rispetto all'attività, no? No, per esempio quando facciamo un test ai bambini o alle classi, si possono utilizzare secondo me anche tutti e due insieme, non allo stesso, riguardando alle stesse domande, però per esempio nominativo agli amici invece graduatorio ai maestri, oppure qualcosa di simile. Ah, rispetto alle figure con sì, i quali... rispetto alle figure certo, diverse, sì. In base anche alla... nel senso possiamo utilizzarli anche tutti e sei, i due primi, i due secondi, i due terzi, a seconda della tipologia del test che noi creiamo. Beh, lei però ha detto un'altra cosa che io trovo condivisibile, cioè rispetto alle reti che vogliamo studiare. Sì. Per alcuni tipi di reti può essere utile una opzione, per altri invece un altro tipo di opzione. Quindi non solo il legame, ma anche le reti con le reti con i pari, le reti con invece personale docente, datori di lavoro, insomma al di là della rete amicale. Io pensavo più per esempio amici, maestri, perché per gli amici identificare il nome sarebbe più, diciamo, una graduatoria di nomi più efficace che per i maestri, diciamo. Invece per i maestri o per le materie puoi mettere un grado di preferenza, Il che significa che ti potrebbe piacere più una materia che un'altra, invece per gli amici è un po' più... Certo. Se gli sai il nome è un tuo amico, se non gli sai il nome è già... Diciamo che in senso generale bisogna rifletterci bene ogni volta, e quando prima riprendo un attimo un punto che forse posso meglio chiarire adesso, ricordate quei sei punti, le sei questioni della ricerca? Ecco, definizione della strategia più adeguata per rilevare la presenza di legami, quantità, elenco, eccetera, stiamo a quel livello là. D'accordo? Dopo i primi 5 punti si arriva qua e dobbiamo fare questa scelta. Ma questa scelta non può essere fatta al di là di quello che noi vogliamo sapere. Non dello scenario che vogliamo dipingere naturalmente, ma del tipo di domande di ricerca che abbiamo. Allora andiamo un po' avanti. Ecco, questa è la rilevazione degli eventi. Ci vogliamo fermare 5 minuti? No, ma siccome è passato morto. Poi facciamo un giro fino alla 13:30, va bene? Così ci andiamo a chiamare la solita.